Eccoci con Sandro Baldoni, regista del documentario La Botta Grossa, che sarà all'Apollo 11 a Roma oggi 15 marzo. Sandro, ben ritrovato. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ci eravamo sentiti con te a novembre, sempre su questo documentario. Intanto ti chiedo com'è stato il percorso da novembre ad oggi per il tuo lavoro. Ma dunque, dal novembre ad oggi c'è stato questo lancio di un periodo un po' difficile che andava a ridosso di Natale, ma insomma il documentario è andato bene anche con alcune sorprese. Ogni tanto ci ritrovavamo con 400 persone in sala, mentre nella sala vicina, dei grandi multisala, c'era Star Wars con 6-7 spettatori. Ogni tanto ci siamo tolti anche questa soddisfazione. Comunque è andato bene. Poi adesso, la settimana scorsa, abbiamo vinto il Nastro d'Argento come miglior documentario nella sezione Cinema del Reale. E adesso sta insomma, ci stiamo un po' muovendo per festival, eccetera, internazionali anche. Ecco, per chi è all'ascolto e non lo conoscesse, come lo presenteresti, Sandro? Ma dunque, è un documentario sul terremoto, che detto così, secondo me potrebbe anche sembrare una cosa triste dove si piange molto, ma in realtà è una specie di indagine psicologica sulle conseguenze del terremoto, psicologica in senso che si parla. Sono tante persone che parlano delle loro, diciamo così, del loro trauma personale, quindi raccontano un po' delle cose anche intime, no? Sì. Il tentativo era quello di, non, non, di raccontare quello che, non, che il telegiornale non raccontava. E quindi andare sulla parte intima. Questo tutto vissuto attraverso un'esperienza personale, perché la mia casa è crollata, perché avevo casa lì, perché io sono cresciuto nelle zone di Norcia, e quindi da lì sono partito proprio per raccontare un po' questi stati d'animo, a cominciare dal mio. E questa è, diciamo, la sostanza sì. Poi da lì, insomma, abbiamo attraversato Umbria, Marche, trovando una grande quantità appunto di storie diverse. Storie molto belle, storie di resistenza, di reazione, storie di rinascita. Insomma, è un film che racconta in qualche modo l'essere vivi, no? Il resistere a una tragedia e il riprogettarsi. Tra difficoltà molto, molto pesanti, perché ricordo ad esempio nel tuo documentario tutta la parte dedicata al periodo marittimo, quando i terremotati sono stati spostati sulle rive dell'Adriatico, e poi anche i paesini, i piccoli paesi del centro Italia hanno subito un colpo durissimo al rischio della sopravvivenza proprio del paese, viste le Sì. Certo, rovine e la vita che comunque stenta a riprendere. il momento è difficilissimo adesso perché insomma poi un po' si sono un po' spenti i riflettori, a parte questa ultima cosa della vicenda a Norcia di questa costruzione sequestrata che era stata progettata dall'architetto Boeri. Diciamo che adesso è il punto più difficile, il momento più difficile, perché le persone si rendono conto che dovranno stare magari 6, 7, 8 anni fuori casa, e quindi 6, 7 anni di vita sono tantissimi per gente che ha perso il lavoro, che deve ricominciare tutto da capo, che non ha più quei punti di riferimento anche semplici, no? Anche solo visivi della piazza, della comunità, eccetera, eccetera. E in questo momento c'è proprio la coscienza che bisogna fare in qualche modo da soli, e questa è dura. Sì, perché non c'è solo la questione casa con i nuovi moduli abitativi, ma è proprio tutta l'economia che girava intorno a questi piccoli Sì, centri. quella era un'economia fragile, no? Che con un terremoto ovviamente viene abbattuta completamente, cioè erano piccole realtà artigiane oppure che vivevano sul turismo, che avevano un equilibrio fragile, economico fragile, precario. E quindi adesso molti hanno cambiato completamente mestiere, no? Sì. Alcuni di quei paesi si stanno anche spopolando, perché sai, Certo. persone magari che hanno 35 anni, 40, dei figli piccoli, hanno dovuto cambiare lavoro, si sono trovati dei lavori magari sulla costa marchigiana. E quindi quei paesi che già erano, diciamo, si stavano un pochino spopolando, hanno preso un colpo abbastanza importante. Quindi Sì. la scommessa sarebbe quella di in qualche modo ricostruire e ripartire lì, lo sai. Ecco, proprio a questo proposito, Sandro, ti chiedo che impressioni hai ricavato da questi incontri e da questo periodo trascorso insieme a loro. Ma guarda, allora, se parli di incontri col pubblico, dici? No, no, no, no, proprio con i protagonisti della storia, insomma. Vabbè, io, diciamo, io sono cresciuto lì e molti di loro li conoscevo già, quindi poi tornavo ogni tanto, quindi c'era un legame forte con loro. Diciamo che questo mi ha permesso un po' di riuscire a scavare un po' di più. Quello che l'impressione generale è che nelle comunità che sono rimaste, le comunità che sono rimaste sul posto, come quella di, ce n'è una delle storie del film, la comunità di Campi di Norcia, loro praticamente si sono auto-organizzati, autofinanziati e hanno, se sono rimasti, hanno rifiutato di andarsene, sono rimasti Sì. vicino alle case, vicino agli animali, eccetera. E loro in questo modo hanno superato il trauma in maniera più veloce, mentre invece quelli che sono stati presi nel giro di 48 ore e portati dalla montagna in riva al mare, anche se stavano nei residence marini, eccetera, sono stati più facilmente presi dalla depressione, del loro sradicamento, perché le comunità si sono praticamente distrutte. Non c'è stato quindi più il legame della comunità, e lì c'è state malattie, c'è stato un aumento delle malattie nervose, depressione, aumento dell'uso di psicofarmaci, eccetera. Quindi diciamo, le comunità che sono rimaste assieme e hanno fatto, si sono saldate attorno ai loro, diciamo, punti di riferimento naturali di sempre. Sono in qualche modo un po' salvate Sì. da questo tipo di effetto. Invece le comunità che si sono disgregate sono ancora tuttora in preda a dei problemi grandissimi, insomma, mancanza di lavoro, depressione, eccetera. Senti Sandro, la proiezione di stasera è anche legata ad un incontro, ci racconti un po' com'è organizzata? Allora, stasera siamo all'Apollo 11, che è un po', tra virgolette, il tempio del documentario italiano, no? Sì. Ovviamente all'Apollo 11 a Roma c'è questa tendenza a fare documentari, a proiettare documentari. Ovviamente il documentario ha molte difficoltà per essere distribuito, quindi l'Apollo 11 è uno di quei posti in cui c'è una ricerca dei documentari di qualità e una selezione. Come è organizzata? Boh, ci sarà un. Io penso che porterò con me uno dei protagonisti del film, che è tra virgolette, terremotato, il capo della comunità di Campi. Faremo una chiacchierata col pubblico, una discussione sul film e sulla situazione attuale. Quindi spero che venga gente, insomma. E Certo, poi certo. quando io dico ho fatto un documentario sul terremoto, tutti fanno un passo indietro, no? Ma che Sì, beh, documentario sì. sul terremoto stasera? Invece in realtà è un'indagine anche in alcuni momenti ironica e anche divertente su come può reagire l'essere umano nel bene e nel Sì. male a una catastrofe del genere, no? Sì. Quindi tutti gli aspetti, sia positivi che negativi, sia Certo. divertenti che tristi, cioè, Sa situazione anche entomologica di come si comporta l'essere umano in una situazione del genere. Sì. Sandro, in chiusura ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più. C'è una pagina Facebook. Sì, c'è la pagina Facebook di Acqua su Marte, che è la casa di produzione milanese di cui io sono socio, e lì si trovano notizie. Adesso noi stiamo girando per l'Italia ancora, abbiamo moltissime richieste, e quindi lì ci sono continuamente aggiornamento su tutte le date. La pagina è Acqua su Marte Milano. Perfetto. Allora ricordiamo l'appuntamento con La Botta Grossa, il documentario di Sandro Baldoni, all'Apollo 11 a Roma, oggi 15 marzo. Sandro, un abbraccio e a risentirci presto. A presto, ciao. Ciao. Ciao.